Savonarola, il frate che scornacchiò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, ai tempi in cui barista e cameriera erano spesso sinonimo di sensuale conquista e piuttosto facile, specialmente se a fare la proposta era un signore, e lette da me, ai tempi in cui barista e cameriera sono spesso sinonimo di sensuale bellezza, ma sono di gran lunga le donne più difficili da conquistare, anche se a fare la proposta è quella che oggi chiamiamo una celebrità. D'altra parte, quando del ben servir mal si raduna, non si deve incolpar se non fortuna. Serio, capitolo 34. Se sono triste mi travesto come Pierrot. Nella quaresima dell'anno 1497 il Savonarola continuò le prediche sopra Ezechiele, le quali toccarono diversi argomenti di importanza nella lotta che ferveva sempre più viva contro Roma. Furono però assai imperfettamente compilate perché il Violi che le raccolse dalla viva voce ne fece appena un breve e arido sommario nel quale tralasciava assai spesso le cose di maggior momento per tener dietro solo alle visioni e profezie. Le accuse contro Roma furono anche in questa quaresima argomento principale di molte prediche ed acquistavano forza maggiore dal presentimento di una vicina crisi della lunga lotta e di un prossimo sollevamento di tutta la cristianità contro le abominazioni di Roma. Né il Savonarola oggi mai si asteneva dall'affermare che egli si sarebbe messo alla testa di un tal movimento per correggere e riformare la Chiesa. «La terra è piena di sangue», diceva egli parlando dei preti, «e non curano nessuno! Anzi, col malo esempio ammazzano ognuno nell'anima sua! Sono allontanati da Dio e il loro culto è di stare tutta notte con le meretrici e tutto il dì a cicalare nei cori e l'altare è fatto bottega del clero. Dicono che Dio non ha provvidenza del mondo, che tutto è a caso e non credono che nel sacramento sia Cristo. Fatti in qua ribalda chiesa, io ti avevo dato, dice il Signore, le belle vestimenta e tu ne hai fatto idolo. I vasi desti alla superbia, i sacramenti alla simonia, nella lussuria sei fatta meretrice. Meretrice sfacciata, tu sei peggio che bestia, tu sei un mostro abominevole. Molti di voi dicono che verranno scomuniche, ma io vi ripeto che si cerca altro che scomuniche. Permetti, prego, Signore, che la venga presto. Oh, non hai tu paura? Non io che mi vogliono scomunicare perché non faccio male. Portatela in su una lancia, questa scomunica, apritele le porte. Io voglio risponderle, e se non ti fa maravigliare, di poi quello che ti pare. Io farò impallidire tanti visi là e qua che ti parranno ben molti, e manderò fuori una voce che farà tremare e commuovere il mondo. Così finiva il quaresimale sopra Ezechiele, in cui il Savonarola apparecchiava il popolo alla gran lotta che era vicina a scoppiare e al concilio che gli sperava di riuscire ben presto a raccogliere. Ma nel tempo che si apparecchiava a ricevere la scomunica e a sostenere con Roma una guerra religiosa, nuovi e inaspettati pericoli minacciavano gravemente lui e la Repubblica. Il partito dei Bigi mostrava un'insolita attività che davano un piccolo pensiero agli amici del governo libero, i quali vedevano come, nelle presenti condizioni del popolo, ogni tentativo dei nemici poteva riuscire di pericolo gravissimo. La fame e il caro dei viveri erano sempre cresciuti mentre il lavoro scemava. Ogni giorno nuove famiglie di contadini venivano a branchi in città, ove, chiedendo soccorso per le vie, davano un tristo spettacolo di miseria. Alla fame si erano poi unite molte malattie, fra cui la peste cominciava a sorgere più minacciosa. Gli ospedali e tutti i luoghi pubblici erano pieni di malati e di poveri. Le private abitazioni dei piagnoni s'aprivano a ciascuno generosamente, e ciò nonostante Jacopo Nardi fa scendere a più migliaia il numero di quelli che morirono di fame, molti dei quali esso vide cadere estenuati su muriccioli delle vie o accanto agli usci delle botteghe. Questi erano tempi davvero opportuni per i medici, e infatti, mentre i piagnoni non pensavano ad altro che a soccorrere il popolo, i bigi erano tutti dediti a cospirare in segreto per il ritorno di Piero. Ed uno di coloro che più si adoperavano era quel frate Mariano da Gennazzano, il cui odio contro al Savonarola fu sempre inestinguibile. Esso aveva di continuo aizzato il papa contro di lui e ora veniva improvvisamente a Firenze. Ma prima di narrare quali fossero le trame di quel partito e che mezzi adoperasse Piero de' Medici per riuscire nel suo intento, vediamo che vita fosse stata in questo mezzo la sua e quali i suoi pensieri. Per fortuna noi abbiamo di ciò un'assai minuta relazione fattaci da un Lamberto dell'Antella che s'era molto adoperato in quei maneggi e conosceva assai bene l'indole e i costumi di tutti coloro che ci avevano posto le mani. Piero de' Medici, adunque, dopo che nell'anno passato gli era fallito il tentativo di entrare in Firenze con le armi, trovandosi privo di speranza, con pochi amici e senza danari, s'era ritirato a Roma, dove si abbandonano ad ogni più osceno e scandaloso vivere. Si levava la mattina in sull'ora del desinare e innanzitutto mandava in cucina a vedere se gli apparecchi erano di suo gusto, altrimenti se ne andava a casa San Severino, dove ogni giorno si faceva l'autopranzo e qui soleva passare la più parte del suo tempo. Finito il desinare si chiudeva con qualche cortigiana per una di quelle camere, così ci racconta Lantella, e rimanendo vinzino a dopo la cena ne usciva con uomini di malaffare e di poco cervello a correre le vie di Roma. La notte passava nei bagordi ed una o due ore innanzi giorno tornavasene finalmente a casa e alla moglie. La gola, il giuoco, la libidine e ogni vizio contro natura consumavano il tempo e la vita sua, ma fra tutte le sue passioni violentissimo era l'orgoglio e il bisogno che aveva di opprimere e dominare gli altri. A lui sembrava che chiunque gli era intorno fosse tenuto a obbedirlo e lasciarsi tiranneggiare a suo arbitrio, né mai gli veniva in animo alcun sentimento di riconoscenza o pietà verso coloro che lo servivano. Non v'era fede, non v'erano fatiche o pericoli corsi per lui che bastassero mai a salvare dai suoi modi prepotenti e bestiali. Un tal Francesco del Nero, dopo aver per suo comando viaggiato tutta Italia portando somme considerevoli e servendolo con quanta fede al mondo, ne ebbe questa ricompensa che Piero lo prese grandemente a noia e ebbe l'animo di pregar Lamberto dell'Antella che lo facesse in qualche modo uccidere. In casa sua era sempre qualcuno dei più antichi e fedeli servitori, dei quali quando aveva bisogno sembrava fare grandissimo conto e tenerli in grandissima affezione, ma non appena aveva cessato di valersene li trattava peggio che bestie e per levarsene qualcuno d'intorno tentò anche il veleno. Ne teneva questi modi brutali solo coi servi, egli anzi non sapeva frenarsi con alcuno e col suo fratello cardinale trascorreva assai spesso, in presenza di molta gente, a parole e atti indegni d'usarsi con l'ultimo famiglio, onde più volte furono in sul punto di separarsi. Tutto ciò peraltro non impediva che, quando al cardinale venivano denari, Piero ne volesse in ogni modo la parte sua, che in due o tre giorni aveva subito giocata o gettata via. In questo modo s'erano ridotti a tale che avevano dovuto impegnare le gioie e gli argenti ed arazzi, erano carichi di debiti su cui pagavano il 20% e, per usare una frase del tempo, non spendevano fiorino che non costasse loro 8 lire. Ciononostante Piero si pasceva sempre della speranza d'avere un giorno a tornare in Firenze e si godeva nel pensiero delle vendette che allora avrebbe fatte e del sangue che avrebbe versato. Teneva seco una nota di tutte le famiglie che dovevano essere disfatte, le loro case pensava a spianare e i loro beni confiscare a suo vantaggio. Infatti, quando per la venuta dell'imperatore a Pisa risorgeva un poco la speranza dei medici, il cardinal Giovanni, trovandosi a Bolsena e discorrendo un giorno della possibilità di essere richiamati, si lasciò dire che gli esili e le confische del 34 e le morti del 78 dovevano sembrare un gioco a quello che farebbero essi questa volta, perché si volevano assicurare per modo da non venire mai più cacciati di Firenze. La via che Piero si proponeva di tenere per riuscire nel suo intento era di spendere quasi tutte le entrate dello Stato in due grosse condotte affidate al comando dell'Orsini e dell'Alviano, ed in tal modo sperava con le armi farsi cure le sue vendette. Egli poi se ne stava sempre dietro ai potentati d'Italia a pregare e a raccomandare la sua causa, perché desiderava ardentemente di entrare in Firenze solo con le armi esterne e non venire in obbligo di sorta verso alcun cittadino, né doversi reggere con l'aiuto e consiglio loro, cosa che sopra tutte le altre aborriva. Un giorno infatti, trovandosi nella sua camera a discorrere con qualche amico del desiderato ritorno in Firenze e, come suole avvenire in questi casi, parendo ad ognuno d'essere quasi insulfatto, messer Lodovico da San si rivolse a lui dicendogli: voi farete un bello stato e con un savio e buon consiglio di 25 o 30 cittadini farete la pratica e governerete la terra a vostro agio. Al che Piero, con un atto assai indecente, rispose: voi dovreste pure aver capito che io non vo' consiglio di persona e desidero piuttosto capitar male per consiglio mio che bene per quello d'altri. Tali erano i costumi e le intenzioni dell'uomo che i potentati cercavano rimettere in Firenze, ed ora anche la fortuna appareva che gli volesse porgere favorevole occasione. Durante la lotta che ferveva tra arrabbiati e piagnoni, i bici avevano saputo acquistare nuove forze, già che tenendosi sempre stretti e uniti fra loro e ponendosi tutti insieme ora da un lato ora dall'altro, divenivano assai spesso padroni delle elezioni che si facevano in consiglio. Così difatti nella nuova signoria, per marzo ed aprile, riuscirono a creare gonfaloniere Bernardo del Nero, uomo certamente di molta autorità e prudenza, ma stato sempre creatura dei medici e desideroso di vederne il ritorno o almeno di stabilire in Firenze un governo ristretto. Non appena fu nota questa elezione, che subito si vide nei bici una gioia che invano cercavano di nascondere, una staffetta partì segretamente da Firenze e corse a briglia sciolta verso Roma per dare l'annunzio a Piero dei Medici. Questo, svegliatosi allora dal suo letargo, scrisse in mantinente agli alleati, ad amici e parenti, onde raccogliere uomini, armi e danari. Trovò gran favore nel Papa, nei veneziani ed in altri. Il Duca di Milano però restava sempre chiuso nel suo antico rancore. In Firenze molti giovani caldissimi nella sua parte lo sollecitavano con lettere e commessi continui, promettevano che al suo primo apparire la città intera si sarebbe sollevata in favore dei medici, onde egli, così aiutato e incoraggiato, poté mettere insieme 1300 uomini sotto il comando di Bartolomeo d'Alviano, giovane allora di grandi speranze nella milizia italiana. Ma quando era pronto a mettersi in moto e quando già si avvicinava al suo termine l'ufficio della nuova signoria a lui favorevole, Bernardo del Nero mandò a consigliare di soprassedere, giudicando che l'impresa fosse per allora di assai difficile riuscita. Piero, d'altronde, dopo i sacrifici fatti e le speranze avute, non poteva più stare sulle mosse e, ricevendo da altri amici lettere che gli davano grande animo e lo sollecitavano, decise finalmente di tentare in ogni modo la fortuna. Verso il 20 d'aprile si mise in cammino per Siena, dove trovò Pandolfo Petrucci, che era quasi signore di quella repubblica, tutto disposto a favorirlo. Riposate quindi e messe in ordine le sue genti, pigliava la via di Firenze il 27 dello stesso mese. Camminarono così rapidi che due ore innanzi all'alba del 28 erano già al monastero di San Gaggio, dove aspettavano che, fatto giorno, il popolo aprisse la porta di San Pier Gattolini e li ricevesse con acclamazioni in città. Ma nella notte erano stati trattenuti da una pioggia di rotta presso alle Tavernelle, luogo distante 16 miglia da Firenze, e mentre che qui vi riposavano i cavalli e la gente stanca, avevano anche per maggior cautela trattenuto o rimandato indietro chiunque veniva verso la città. Fra questi fu un contadino, il quale, vedendosi a quell'ora in quel luogo ricacciato da cavalieri armati, sospettò che qui vi fosse Piero de' Medici, e messosi per vie traverse si trovò alla porta in sul primo aprire di essa, onde subito poté fare avvertiti i doganieri di tutto l'accaduto. Questi lo menarono di filato alla signoria e non erano anche giunti a palazzo che la città era già piena della nuova del fatto. Il popolo sollevato correva alle armi e la signoria si trovava subito costretta a far chiudere le porte e mettervi sopra quelle poche artiglierie che erano pronte. Bernardo del Nero cercava nascondere il suo vero animo col mostrarsi dei più caldi a provvedere, e come nel popolo già si erano generati molti sospetti, così fu pensato di non mettere fuori i gonfaloni, ma si diedero invece le armi solamente a quelli che erano più fidati e conosciuti amici della libertà, i quali subito corsero alla guardia delle porte. In questo mezzo, quando il disordine era grandissimo e lo spavento universale nella città, messer Filippo Arrigucci, uno dei signori e tutto amico del Savonarola, mandò a lui Girolamo Benivieni per sapere quello che sarebbe seguito della città. Il Benivieni medesimo ci racconta come, non appena il frate lo vide entrare nella cella, che senza neppure dargli il tempo di parlare disse: «Modice fidei, quare dubitasti? Di pure ai signori che Piero de' Medici arriverà alle porte e tornerà indietro senza ottenere alcun risultato». Infatti, non appena fu chiaro il giorno, che Piero s'accostò alla porta e con sua grandissima meraviglia la trovò sempre chiusa. Quando poi s'avvide come le poche spingarde che v'erano sopra s'apparecchiavano a tirargli contro, allora si nascose dietro un muro, dove invano attese che la città levasse tumulto in suo favore. Così restò tutto il giorno e, trovandosi alla testa di 1300 uomini benissimo armati, non ebbe il coraggio di muovere una sola spada, ma piuttosto volle dare di sé miserabile spettacolo agli abitanti di quel borgo, che guardandolo deridevano la sua paura. Persuaso finalmente che nella città niuno si muoveva in suo favore, e sopravvenendogli ancora il pensiero che le genti fiorentine a Pisa gli potessero tagliare il cammino alle spalle, si volse subito indietro, facendo piuttosto una fuga che una ritirata, perché non era anche giorno che già si trovava sul territorio sanese. Dopo questo fatto, Piero de' Medici non poteva più avere alcuna speranza di tornare in Firenze. La sua fortuna era oggimai rovinata per sempre. Nel tentativo dello scorso anno aveva sperimentato quanto valessero la fede e gli aiuti dei suoi alleati, e ora che alla testa del governo si era trovato un suo fautore, poteva vedere quale fondamento avessero le speranze che i suoi partigiani gli avevano dato in Firenze. Ivi però le cose non restavano tranquille, ma invece piene d'alterazione e disordine. Il dubbio già venuto a molti che nella signoria stessa si fosse tramato in favore dei medici teneva gli animi tutti sollevati e pieni di sospetto, inaspriva le parti e destava odi nuovi. Con molta prudenza fu quindi deliberato ad abbuiare il fatto sino a che non se ne venisse talmente in chiaro da poter dare qualche sanguinoso esempio. Una nuova signoria fu eletta il medesimo giorno di quel tentativo. Agli otto fu imposto di vigilare sui movimenti di Piero. Francesco Valori, che era di quel magistrato, e Tommaso Tosinghi, che era dei dieci, ebbero l'incarico di rintracciare quelle fila della congiura che s'erano ordite in città, e così per un momento posarono le cose, non però senza pericolo di nuovi e maggiori disordini.